take my heart. Hard to say. Seal the deal. Aspetta, ora ci sistemiamo. La grandissima Melissa Aufdermaur, questa era Follow the Waves, siete su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi e non solo, perché tornato qui in onda con me il collega amico Max De Rio, buon pomeriggio Max. Grazie Edo. Avevo bisogno di una mano perché dagli ascoltatori è arrivata questa notizia che in realtà ci tocca veramente da vicino. Allora, voi ricordate ricordo la vicenda per chi non lo sapesse: in Piazza Liberty venerdì scorso, noi un po' scherzando, sapendo che Brian May stava cercando di salvare una radio che si chiama Planet Rock, una radio inglese che ha i nostri stessi problemi, che chiuderà il nostro stesso giorno, tra l'altro, il 31 di maggio, abbiamo così un po' scherzato e lanciato un video messaggio a Brian May chiedendogli se poteva interessarsi della causa, anche della nostra causa, esatto, della causa Rock FM, mostrandogli insomma quanto era grande l'affetto per questa radio, mostrandogli il palco di Piazza Liberty e soprattutto la piazza di fronte al palco al quale abbiamo suonato. Sono un po' agitato. La piazza che intonava giustamente Bohemian Rhapsody con davvero passione, esatto, e partecipazione. Esatto, oggi giunge la notizia che May, il video è stato postato su YouTube, che a questo punto si dimostra davvero un'arma incredibile, quasi micidiale, fammi definire così. Certo, oltre che su YouTube, tra l'altro anche sul mio blog, se vogliamo dirlo. Diciamo anche su rockfamily.it. Esatto, lì non ne sono certo. No, c'era un link forse. Okay. In ogni caso, il grandissimo Brian May ci ha risposto, e non ha risposto così, ha risposto sul suo sito, che è brianmay.com, se lo volete andare a visitare. Esatto, noi abbiamo fatto di tutto per capire se non si trattasse di un fake, uno scherzo, così, questo tipo, ma a quanto pare siamo davanti a un vero, ossia che Brian May ha risposto che è molto... C'è un comunicato ufficiale sul sito di Brian May. Esatto. Che recita così. Che dice, è molto, traduco velocemente, dice, sono scioccato per questa cosa, sto ancora cercando di vedere se sono nelle condizioni di poter aiutare una radio, a salvare una radio che sta chiudendo, che tra l'altro è anche vicina a casa mia, visto che trattasi di una radio inglese, più facilmente gestibile quindi la cosa. Esatto, lui dice che è profondamente toccato dal messaggio che gli è arrivato, che tra l'altro ricordiamo un messaggio che gli è stato mandato dalla famiglia, dagli utenti di rockfamily.it, che gli hanno inoltrato tutti assieme questo messaggio nel quale mettevano a conoscenza di questo video su YouTube, e più che altro chiedevamo disperatamente il suo intervento, esatto, anche economico. Esatto. E dice: è un pochino fuori dalle mie capacità per potermene occupare. Comunque ci fa i migliori auguri, ci fa l'in bocca al lupo e dice che il suo cuore sarà con noi e che spera che tutto si sistemi per il meglio. Questa cosa è una cosa che ovviamente cosa va veramente al di là di tutto. Io tra l'altro, perdonami, ma oggi è una giornata nella cui ho scoperto di essere sul sito dei Kiss. Adesso su questo di Brian May c'è qualcosa che non va, o forse sta andando troppo bene. O forse, vabbè, lasciamo stare. Comunque, ovviamente un ringraziamento apocalittico va al grandissimo Brian May, che già si stimava per altri motivi, ora ci troviamo a doverlo fare. Tra l'altro non vi nascondiamo che questa cosa, ovviamente, oltre a avere stupito forse molto più noi di lui, adesso ci permetterà e cercheremo di attivarci, anzi, proprio in questo momento mentre vi parliamo noi, esatto, lo stiamo già facendo, esatto, ci stiamo attivando affinché... Ci sono molti artisti che stiamo contattando in questo periodo telefonicamente, ho parlato negli scorsi giorni con John Lord, ieri, oggi con, certo, Bob Daisley. A questo punto direi che è di rigore, saluto, di rigore una telefonata con Brian, esatto, May, che speriamo di riuscire a sentire in viva voce attraverso il telefono. Ovviamente non pretendiamo che ci venga a trovare in studio, anche, esatto, se il 31 maggio, se, il 31 se maggio non avesse nulla da fare. Esatto, va bene. Va bene, Max, grazie per essere venuto in mio soccorso, grazie, per una notizia, grazie, così pazzesca. Ci stavamo sostenendo a vicenda. Esatto, esatto. Thank you, Brian. Caso di dire, grazie anche solo per la risposta. We love you, Brian. Per le belle parole e naturalmente non possiamo che andarci a ascoltare Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galile

Eccoli! E per Jam riascoltati con Even Flow. Allora, abbiate pazienza, siamo piano piano un po' ripresi da questa botta, tra poco verrò a rispondere ai vostri messaggi che tra l'altro commentano la risposta di Brian May all'appello della Rock Family per salvare Rock FM, ma come annunciato prima e quindi il mio invito è di nuovo alle band emergenti a tirare sulle orecchie, a drizzare le orecchie per parlare di un interessante concorso, si chiama Primo su Mille, abbiamo Umberto Salvati a parlarcene di Punto Music. Buon pomeriggio Umberto. Ciao, buon pomeriggio a te, tutto ok? Sì, insomma, un po' di cardiopalma, però insomma tutto bene. Immagino dopo quello che avete appena vissuto. Sentito, letto, insomma vissuto, esatto. Noi siamo stressatissimi, sì? stiamo giungendo nelle fasi finali del concorso e anche noi comunque siamo un po' presi, un po' al cardiopalma. Immagino. Senti, ma partiamo dall'inizio allora, di che cosa si tratta? Che cos'è Primo su Mille? Allora, Primo su Mille innanzitutto è la seconda edizione quest'anno. L'anno scorso abbiamo esordito quando ha chiuso i battenti il Festival di San Marino, uh-huh. Al che Franco Zanetti, che era il presidente di giuria di San Marino, mi ha detto: ok, San Marino lo organizzi tu, lo organizzi a Brescia. E vabbè, ho deciso di sì ed ecco Primo su Mille, in realtà è andata così, insomma. E siamo qui, siamo alla seconda edizione, è andata bene, l'anno scorso abbiamo avuto oltre 100 band iscritte tra cover band, tribute band, band con brani originali e quest'anno pensiamo di fare molto meglio, insomma, ecco tutto qua. Bene, allora, quindi per iscriversi come si fa? Per iscriversi si va o sul sito www.puntomusic.it oppure sul sito www.primosumille.com e in fondo si trovano i moduli del regolamento oppure il modulo per la partecipazione con tutti i vari costi, oppure possono telefonare tranquillamente allo 030 21 41 466 e trovano le simpaticissime impiegate che gli spiegano come fare, ecco tutto qui. Ci tengo a dire che le selezioni sono fatte in uno degli ultimi locali rock veri della provincia bresciana, sul lago di Garda, Moniga, il Green Lion, okay. E saranno lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 giugno, uh-huh. Dal pomeriggio partiamo, facciamo una tirata unica, dalle 2 del pomeriggio fino alle 4 del mattino, sia lunedì che martedì che mercoledì, facciamo 30-35 band al giorno, però, dal vivo, certo. E sarà dura. Bene, tra l'altro ci sono anche dei gran bei premi, giusto? Beh sì, penso proprio di sì, perché allora i premi per le band che portano un brano originale sono a parte la giuria che è composta da Roccol, insomma Franco Zanetti, certo. E altre persone che poi parteciperanno. Poi ci sono 3.500 euro in strumenti musicali al primo classificato, uh-huh. E 2.000 euro sempre in strumenti musicali a chi invece verrà valutato dal pubblico, insomma il più votato dal pubblico, certo. Questo per quanto riguarda i concorrenti che faranno brani originali, sì. Per quelli che invece partecipano come cover band o tribute band, la prima cover band o tribute band entrerà direttamente a far parte di Jam for Live, che credo che molti conoscano, è una delle agenzie di booking più importanti d'Italia e avrà un tour di 10 date pagate. Insomma, poi alla cover band più votata dal pubblico verrà data comunque l'opportunità di fare qualche data data da Jam for Live. Poi c'è un altro interessante premio che è fatto in collaborazione tra Punto Music e Jam for Live, insomma, che collaborano da anni in questo settore, sì. Che si chiama il premio One Man Show praticamente, uh-huh. E è il premio delle persone che tipo Michele Tomatis, che magari qualcuno conosce, fa uno spettacolo trasformista o, certo. Non so, Raul Donovan, queste persone che sono bravissime, certo. Si cambiano, cantano da Dio, ballano da paura, insomma, uh-huh. Insomma chi vuole partecipare a questo concorso ha l'opportunità di entrare a far parte di One Man Show, della quale mi occupo io, certo. Assieme a Carlo, l'ex cantante dei For You. Bene. E queste cose, ecco. Senti Umberto, ci sarà poi una finalissima dove anche se non si vince il premio è comunque calcare lo stesso palco dei presentatori, giusto? Beh sì, diciamo che seguendo la matrice di San Marino, primo su mille, prima di tutto è una vetrina. Certo. Quindi, cioè, a parte la giuria, Rock Hall è già una parola importante, un nome importante. Certo. Dopodiché, vabbè, ci saranno 5-6 mila persone del pubblico, e già anche lì l'emozione non mancherà. Uh-huh. E chi partecipa, insomma, la madrina di primo su mille, Elisabetta Canalis, chi con esatto, bruttissima. Certo. Invece la conduttrice assieme a Franco Zanetti e Federica Fellini, che ha, anche lei bruttissima, esatto, che ha condotto Sanremo 2 anni fa assieme, certo, a Bonolis, e canterà un pezzo, poi vabbè, ci sarà Omar Pedrini che farà qualche pezzo, che Omar Pedrini è il chitarrista di Timorian, certo, ecco, sì, sì, canterà qualche pezzo, dopodiché nei 20 minuti di no, sarà meno, spero 10 minuti di esibizione, esatto, la decisione del vincitore. Uh-huh. Paolo Migone, che è uno dei più forti comici di Zelig, intratterrà, certo, il pubblico. Bene. Penso proprio che sarà una bella opportunità. Ah, c'è una novità. È obbligatorio vendere i propri CD. Ok. Alla faccia della SIA e tutto, certo, il resto. Ecco, nel senso, siamo già d'accordo col sindaco di Gussago. È veramente fantastico. Per chi arriverà in finale avrà, certo, il suo stendino, potrà vendere tutti i CD che vuole. Fantastico, ecco, fantastico. Quindi ricordiamo i contatti, quindi puntomusic.it piuttosto che primosumille.it, questi sono i due siti principali, esatto, sui quali trovare informazioni a proposito di questo concorso. E che altro dire, in bocca al lupo a tutte le band, e naturalmente in bocca al lupo anche a voi per l'organizzazione di questa manifestazione così importante per le band emergenti. Crepi il lupo anche a Rock FM, bocca al lupo a Rock FM. Ok, grazie Umberto, davvero. Ci sentiamo presto e buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te. Ciao, ciao, ciao. Umberto, ciao, ciao. Lord, I woke up early this morning. You're just losing your mind. Mamma mia, Losing Your Mind, Pride and Glory, la prima band di Zakk Wylde, siete all'ascolto di Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi. Mamma mia, una giornata intensa, ma come intense in realtà sono queste ultime giornate che contraddistinguono le ultime ore di messa in onda di Rock FM. Insomma, è pazzesco di come la solidarietà e comunque l'amore e la passione per il rock and roll alla fine riesca ad accomunare tutti, da dei semplici appassionati come noi a un vero e proprio dio del rock come il grandissimo Brian May. C'è chi dice: ma cosa è successo? Niente, che riassumo brevemente. Su Rock Family, i ragazzi di Rock Family hanno deciso di postare, insomma gli utenti di Rock Family hanno deciso di postare a Brian May il video di Piazzetta Liberty, nella quale con la Rock FM Stars Band facevamo a lui una sorta di appello per cercare di salvare Rock FM, un po' sull'onda del fatto che lui sta cercando di salvare un'altra radio. E Brian May quantomeno ci ha risposto e si è detto molto addolorato e ci ha augurato il meglio naturalmente per questa cosa. Il fatto che per farlo abbia scelto di postarlo direttamente sul suo sito non può naturalmente che farci molto onore e farci naturalmente battere il cuore. Allora io avrei da rispondere a mille messaggi, perché in realtà oggi non ho risposto quasi a nessuno visto tutte queste cose. Ci provo adesso, anche se sono un po' in ritardo. Un saluto a Massimo da Viareggio, un saluto anche a chi è rimasto un po' scioccato da vedere la Rock FM Stars Band dal vivo, perché dice: io pensavo prima di vedervi che Max sarà il più serio, Ariel il più giovane, Edo il più distrutto e Mox il più suonato. Invece il più giovane eri tu, il più distrutto Max, il più suonato Ariel e il più serio Mox. Genere in Romagna, quando impegni la Gibson ti manca solo la tuba. Grazie mille, un abbraccio. Poi un saluto a Luca, un saluto anche al Monsignor Fefo, grazie, dice: oggi siamo del comitato Viva la Topa, ovviamente, bene, certo, ne faccio parte anch'io, grazie. Poi dunque vediamo altri messaggi. Laura da Empoli, grande, dice: ad Empoli sta diluviando, grazie per portare un po' di sole con la tua musica. Grazie Laura, davvero un piacere. La mitica Scendi, per fortuna che c'è il DJ Edo, ma per fortuna che c'è Scendi. D'altro Scendi plurifotografata, era in prima fila al concerto di Milano della Rock FM Stars Band, si è finita in un sacco di foto, le sto vedendo in giro per i MySpace. Tra l'altro un grazie va a Luciana, un grazie va a Fanello per aver scattato tutte le fotografie, un grazie va a Nino, naturalmente a Bea e a tutti coloro i quali hanno scattato delle fotografie che ci state inviando. Vi ricordo ancora di inviarle a edo@rockfamily.it. Ora adesso non funziona, ma poi dopo lo aggiusteremo. Un saluto anche al grandissimo Tiziano da Firenze, un saluto anche a Mirko73 che dice: sto tentando l'overdose di Rock FM ma non ne ho mai abbastanza, come la Clerici non sa stare senza il calcio, lei voleva dire, io non so stare senza di voi, devo fare abbonamento a internet, ok, va bene, grazie Mirko73. Dai, veloci, tra poco ci sono gli Stained. Vi ricordo, per scrivere a Rock FM 335 100 77 77, oppure sul forum rockfamily.it c'è un topic nel quale oggi si discute via email del programma del DJ Edo. A tra poco.